Domenica 27 settembre dalle 10 alle 20 in Piazza Bracci a San Lazzaro di Savena ci sarà la seconda edizione di Contadini Bio in Piazza con voi. Un'iniziativa di Campi Aperti organizzato dal gruppo bioregionale Savena. Per parlarne siamo al telefono con Andrea Manservisi, che saluto, buongiorno. Ciao a tutti. E che cos'è questa iniziativa? L'iniziativa nasce dalla volontà appunto di questo gruppo bioregionale per fare conoscere principalmente al grande pubblico i temi del biologico, del rispetto della natura, del mangiar sano. In particolare ci saranno i contadini biologici di due valli, le valli del Savena e la valle dell'Idice. Valle del Savena, valle dell'Idice, e quindi per questo secondo anno consecutivo, visto il buon successo dell'iniziativa dell'anno scorso, abbiamo deciso di replicare appunto sempre in Piazza Bracci a San Lazzaro con la maggior parte dei produttori biologici all'interno appunto di quest'area regionale che è il Savena e l'Idice. Sarà una giornata abbastanza composita perché diciamo non ci sono solo stand enogastronomici, ma ci saranno anche momenti, cioè il mercato, ma anche momenti di approfondimento. Certo, sì, avremo diverse iniziative. Partiremo alla mattina con un approfondimento su ciò che è l'apicoltura, quindi dal ruolo importante delle api all'interno del nostro ecosistema. Avremo l'entomologo Claudio Porrini e Andrea Lilli, apicoltore, che ci accompagneranno appunto in questo mondo affascinante e complesso. Inoltre ci sarà possibilità di degustare mieli, avremo diversi produttori di miele e avremo modo di avere una sorta di laboratorio, quindi di assistere al processo di smielatura piuttosto che osservare le api attraverso un'arnia dimostrativa, quindi con plessiglass trasparente, quindi potremo vedere all'opera cosa fanno le api all'interno della loro casa, del loro mondo. Tra l'altro sappiamo che le api, insomma, negli ultimi anni non se la passano benissimo. No, non se la passano benissimo. L'uso di fitofarmaci e di industrie, l'inquinamento atmosferico ha fatto sì purtroppo che c'è un grosso calo di numero di api che appunto all'interno, non solo in agricoltura ma in generale per un ecosistema sostenibile, sono fondamentali, ecco. E quindi cerchiamo nel nostro piccolo di tenerle vive, di tenerle attive e popolose. Poi ci sarà uno spazio di approfondimento anche nel pomeriggio. Sì, il pomeriggio è un po' il fulcro, come fu l'anno scorso, della nostra giornata di festa, dove avremo una tavola rotonda dal titolo I tanti volti dell'agricoltura bio, quindi sarà un confronto fra l'agricoltura biologica del contadino e quella industriale. Quindi avremo la partecipazione dell'agroecologo Giovanni Bazzocchi e la contadina Elisa Mattioli. Avremo un ingegnere ambientale che farà da moderatrice all'evento. Diciamo che appunto le differenze e gli approfondimenti saranno fra il piccolo produttore biologico e la coltivazione su larga scala per la grande distribuzione. E infatti questo magari appunto ad alcuni ascoltatori non è chiaro, che c'è biologico e biologico, diciamo, c'è un biologico industriale e un biologico invece fatto con criteri diversi, ad esempio quelli di Campi Aperti. Esatto, sì, abbiamo appunto questa differenza fra il biologico industriale, che non per forza è biologico italiano, e di conseguenza i parametri e i valori e i fitofarmaci utilizzati sono diversi, molto più impattanti a volte fuori dall'Italia. E allo stesso tempo un'agricoltura intensiva, anche se biologica, non fa bene all'ambiente. Ci sarà modo dunque di approfondire questi temi. Allora ricordiamo l'appuntamento. Sì, l'appuntamento è domenica 27 settembre dalle 10 di mattina alle 8 di sera in Piazza Bracci a San Lazzaro di Savena. Ricordiamoci che durante tutto l'evento avremo anche degli stand enogastronomici, quindi è un evento a 360 gradi. È una giornata di festa, quindi dal contadino biologico che può spiegare come funziona l'agricoltura reale in campo, agli approfondimenti e la possibilità anche di assaggiare degli ottimi prodotti.